Passiamo al cinema. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale, potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page alla voce trasmissione Visionari tutte le informazioni, anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Allora, abbiamo la nostra prima ospite della giornata, che è Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema. Anastasia, ben ritrovata. Ciao, saluti a tutti, sempre un piacere essere qui con voi, buongiorno. Non ci siamo fatti gli auguri di buon anno, te li faccio adesso. È vero, grazie, auguri a te e a tutti voi. Allora, con te per parlare della distribuzione del documentario Alla ricerca di Van Gogh, che è in uscita con Wanted Cinema dal 15 gennaio. Allora, intanto lo raccontiamo un po', Anastasia. Sì, allora, anche questo è una, come al solito, ormai un po' ci conosciamo, quelle delle storie di Wanted sono sempre storie un po' particolari. Il fuoco questa volta è un paesino, un villaggio in Cina, dove, che si chiama Dafen, che è abitato da una popolazione di artisti, artisti o operai dell'arte. Questo tra l'altro è uno dei temi del film. Perché? Perché queste persone di mestiere riproducono fedelissimamente le opere d'arte più famose, più importanti, i capolavori dell'arte. E ricevono quotidianamente degli ordini, principalmente dall'Europa, di riproduzioni di grandi artisti, pittori, ma in quantità incredibili. Loro mediamente hanno un 700, devono riprodurre 700 copie di Van Gogh misti, diciamo così, al mese. E quindi è un vero e proprio business che produce un fatturato peraltro piuttosto notevole. Il film quindi racconta, a partire proprio da lì dentro, perché tra l'altro è girato da registi, sono cinesi, quindi hanno accesso libero a tutti gli spazi, a tutto il paese, a tutti questi atelier, racconta questi personaggi che a torso nudo, in squadre, un esercito di Van Gogh moderni, che copiano davvero in una maniera eccelsa queste questi ad esempio La notte stellata, ovviamente è uno dei le opere principali, e tutti quelli che ben conosciamo. A un certo punto però c'è uno snodo narrativo, quindi che c'è la possibilità per una famiglia, perché tutta la famiglia peraltro compie lo stesso mestiere, di recarsi per la prima volta a vedere le vere opere, perché loro riproducono l'opera a partire da una copia, quindi sono copie delle copie, cioè da fotografie o dal tablet. Quindi capita l'occasione finalmente di andare a vedere e a incontrare l'originale. E il film segue quindi questo gruppo, la famiglia in gita tra l'altro in Amsterdam e poi a Darn e poi al cimitero di Van Gogh, e li segue e racconta e registra tutte le emozioni di questo incontro con un personaggio che per loro è quotidiano, che conoscono molto bene, riproducendo i lavori così costantemente, quotidianamente. Senti, quante sono le persone impiegate in questa fabbrica di quadri? Guarda, in realtà ce n'è più di una di queste fabbriche, perché ognuno magari è specializzato in un artista piuttosto che in un altro. Okay. Diciamo, questa in particolare, quella che segue il film in particolare, è una grande famiglia, e ci sono anche, tra l'altro anche nel corso del film, c'è una nuova artista, diciamo così, che viene impiegata, iniziata al mestiere, allora gli si mostra come dipingere, le pennellate, insomma è anche in qualche modo uno scoprire Van Gogh attraverso uno sguardo decisamente inedito. Ma guarda, saranno una decina dentro questa, dormono addirittura lì, hanno ovviamente un ritmo di lavoro pazzesco, ma amano anche il proprio lavoro. Sono ogni tanto in crisi perché dicono, si pongono delle domande, siamo degli artisti o siamo degli operai dell'arte? O vorrebbero anche esprimersi, fare degli, no, dire ok, adesso è il mio momento, è l'originale, cerco di produrre delle cose mie per fare un po' un salto di qualità, ma anche questo ovviamente è un po' difficile, e quindi ci sono anche un po' di momenti di frustrazione tra di loro, insomma. Molto interessante come riflessione anche su che cosa è effettivamente l'arte, che cosa è l'arte and craft, l'abilità manuale e l'idea un po' geniale, insomma è un approccio molto, molto diverso dal solito e è anche divertente. A proposito di quanto stai dicendo, Anastasia, ti volevo chiedere, oltre alla gita a vedere gli originali, quindi sono anche è costruito anche su interviste a loro? No. Ci sono sempre momenti, delle scene a cui assiste il regista muto con la camera. Essendo un gruppo, dicendo che c'è un protagonista in qualche modo, che è quello che da più tempo copia insomma Van Gogh, però si ascoltano molto dialoghi tra di loro che sono sempre molto interessanti, quindi non ci sono mai interviste frontali, ecco, si sente ogni tanto una voce di commento, ma non è costruito come intervista, no? Senti, quali sono gli elementi che ti hanno impressionato di questo documentario? Allora, vabbè, mi è piaciuto molto anche scoprire la storia e vedere effettivamente dal di dentro e stare lì con loro anche lì in Cina e vedere come dipingono, vabbè, avere un contatto tra l'altro molto vicino con le opere d'arte, imparare tra virgolette a dipingere anche attraverso loro. Però è molto intenso anche effettivamente il momento e anche dico un po'. Si fa sorridere anche il momento in cui lui per la prima volta da solo, perché gli aprono un museo a Amsterdam apposta, si confronta con una delle opere che si avvicina dopo un bel po', quindi osserva il quadro a lungo e dice un po' strano, colpito, i colori però sono diversi da quelli che io finora per anni e anni ho sempre utilizzato, e questo è anche un momento molto molto bello, ma anche la riflessione per me è importante sul che fanno loro in modo molto consapevole sull'arte, il senso dell'arte, il loro futuro, questo anche mi è piaciuto. E devo dire una cosa che trovo anche molto interessante è come spunto di riflessione che si impone la questione del consumo dell'arte un po' fast food, un po' veloce, cioè il tema è anche, viene sottolineato nel film, veramente se questi quadri venissero sostituiti agli originali, quante persone se ne accorgerebbero? Quindi quanto oggi l'arte sia è fruita veramente tipo no fast food velocissimo. C'è un'indagine che dice che in 30 secondi mediamente una persona si ferma davanti a un quadro ad osservarla, quindi possiamo immaginare. Anche perché capita di mostre che espongono dei falsi. Sì, esatto, capita anche quelle. Sì, il tema del falso è sempre molto, molto affascinante, che ed è il tema un po' dominante del film. Una curiosità sulla realizzazione dell'opera, su un singolo quadro, quante persone lavorano e che tempi ci sono di performativi, insomma? Allora, in genere c'è a un artista viene affidato una copia, però c'è il proprio protagonista, quello che ha più esperienza, che fa una sorta di supervisione. Nel senso che ovviamente prima di licenziare il quadro e dire ok questo è buono, possiamo spedirlo, lo osserva e dà le sue indicazioni, perché ovviamente non tutti sono magari allo stesso livello, eccetera. Ma lui dice, il protagonista, quindi il più bravo, dice di riuscire a chiudere ormai con la sua esperienza una copia in un'ora, secondo lui ha chiuso e quindi puoi immaginarti. Tieni presente che invece tutti insieme comunque devono reggere dei ritmi di lavoro pazzeschi, quindi sempre di più diventano sempre più veloci e più bravi anche gli altri. Sì, è incredibile. Senti Anastasia, che scelta distributiva fate per questo documentario? Allora, abbiamo dato una data indicativa di partenza e abbiamo una ventina di sale che ci hanno seguito su quella data, che è lunedì 15, quindi lunedì 15 in 20 città d'Italia verrà proiettato il film per un giorno solo o per più giorni, a seconda un po' l'esercente decide un po' liberamente. A Roma sarà contemporaneamente sia al Farnese che all'Apollo 11. E poi dipenderà molto dal pubblico, da voi, da chi ascolta, voi ascoltatori, quanta gente andrà a vedere il film, quanta gente ne parla. Tutti quelli che sono andati a vederli a vederlo al festival, perché è l'unica occasione che c'è stata finora, hanno passato parola molto positiva e di conseguenza noi speriamo che questo accada anche in questo caso, insomma, nel caso del specifico della distribuzione, e contiamo quindi che sia un film che abbia un po' vita lunga e che comunque lo troverete nelle sale, un po' a macchia di leopardo, ma nel corso dei prossimi 6 mesi, ecco. Bene. Allora Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Anastasia Plazzotto di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario Alla ricerca di Van Gogh, in uscita in sala il prossimo 15 gennaio. Vincenzo Caruso, regista del documentario The Hate Destroyer, in tour dai prossimi giorni. Vincenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille e buongiorno a tutti. Allora, io ho segnato il 12 gennaio, ma non so se sia esatta come data. Sì, giusto, 12 gennaio okay. A Napoli. Perfetto. La prima tappa del tour. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Ma allora, guarda, che è cominciata per puro caso, perché diversi anni fa ho trovato un articoletto su un Free Press con una foto che raccontava di Irmela, 10 righe, non di più, e devo dire che la storia mi aveva subito impressionato, perché poi era in un momento in cui, anche un momento storico che adesso chiaramente si ripete e si amplifica, in cui la gente normalmente prendeva le distanze dalle cose sbagliate, ma non interveniva, e questa signora che adesso oggi ha 72 anni che appunto prendeva questa posizione così forte mi aveva subito colpito, perché Irmela, per raccontare in breve, tutti i giorni da 32 anni esce di casa nella sua città, Berlino, e cancella le scritte neonaziste, comunque, che inneggiano al razzismo e all'odio. Quindi è la sua attività quotidiana. È la sua attività quotidiana. Perfetto. Esatto. Una grande. Senti, letto di questo fatto, cosa hai pensato? Cosa hai deciso di fare? Beh, guarda, la cosa più semplice, l'ho chiamata, sono riuscito a trovare il suo numero di telefono e le ho detto che avevo voglia di incontrarla e conoscere meglio la sua storia. Lei era chiaramente molto disponibile, perché poi ci tiene molto a raccontare ciò che fa, e devo dire sono contento perché in qualche modo questo film è diventato anche un po' il suo manifesto. Per cui l'ho raggiunta e nel corso di più anni l'ho seguita giorno per giorno e l'ho compresa anche meglio, perché poi la prima domanda che mi è sorta e che le ho fatto più volte era il perché, al di là di un senso di giustizia. E mi interessava molto perché poi lei non appartiene a nessuna minoranza, quindi non aveva un motivo semplice, no? E piano piano, devo dire anche con qualche difficoltà, sono riuscito ad arrivare un po' alla radice di questo perché. E cosa hai scoperto? Beh, ho scoperto una cosa che in qualche modo già immaginavo, nel senso che io ho sempre avuto l'idea che quando qualcuno fa qualcosa per gli altri, prima di tutto lo fa per se stesso. E trovo che sia anche una cosa positiva, perché ci dà anche la sicurezza che quella cosa continuerà a farla per molto tempo, se quella cosa lo fa stare bene. E indagando, andando nel suo passato, ho scoperto che lei aveva comunque una storia, un passato di violenze anche in famiglia, ma soprattutto era sempre stata ritenuta una persona debole, incapace. E quindi finalmente ha trovato questa cosa, questo modo per mostrare al mondo di valere qualcosa. Io credo che ci sia riuscita. Ma lei esce armata di vernice bianca, e come funziona questo suo lavoro? Ma lei chiaramente gli strumenti li ha ampliati col tempo, per cui adesso ha un raschietto per staccare gli adesivi, ha sempre la sua bomboletta spray, ha l'alcol, gli acidi, qualunque cosa possa servire che nel tempo le è tornato utile, perché poi chiaramente lei è molto conosciuta dalla scena di destra, e devo dire che lei è anche contenta di questo fatto, per quanto possa sembrare strano, perché vuol dire che in qualche modo la temono, no? Che sanno che esiste, per quello ha ricevuto anche tante minacce di morte, lettere anonime, qualunque cosa. Però si sono proprio anche confrontati, per farti un esempio divertente, banale, semplicemente all'inizio hanno cominciato ad attaccare gli adesivi in posti più in alto, di modo che lei non li potesse raggiungere. Allora lei si è preso una prolunga, qui attaccava la schietto per arrivare più in alto, e così via, no? Questa è un po' la storia. Una curiosità rispetto a lei, penso che faccia queste cose in pieno giorno, quindi ti chiedo qual è la reazione anche della cittadinanza e dell'amministrazione. Certo, considera che vabbè, in Germania sono anche molto molto precisi, per cui lei è passibile, come lo è stata, ha dovuto affrontare anche un processo, è passibile di multa e di denuncia, perché comunque, pur andando a cancellare un simbolo che non dovrebbe essere lì, commette un reato. Quindi dal punto di vista della legge è colpevole, ed è stata considerata colpevole anche se poi assolta in appello. La gente in Germania ha una reazione diversa rispetto ad altre città. Ad esempio, lei è venuta più volte in Italia e ha cancellato anche in Italia, ricordo Bologna, ricordo Asti. Devo dire che le persone si dividono, ci sono quelle entusiaste e quelle che invece non sopportano il fatto che si aggiunga una macchia, perché poi lei fa questi macchioni neri per coprire il svastiche o quant'altro, pensano che in qualche modo lei sporchi ancora di più, no? E questo è strano, fa anche pensare, cioè riescono ad accettare una svastica che rimane lì magari per anni, ma non una macchia nera sul muro, ecco, questo è davvero strano. Sì. Vincenzo, ci sono si sono formati dei gruppi di sostegno o comunque azioni che replicano quanto fa lei? Guarda, allora, in realtà non proprio, visto che in Germania ci sono dei piccoli movimenti o movimenti un po' più grandi degli antifa, come ci sono gli antifascisti anche qua da noi in Italia, che non prendono però davvero ispirazione da lei. Ed è una cosa che mi sono chiesto anch'io subito, no? Mi faceva strano che intorno a lei non ci fosse si fosse formata un'associazione che replicasse le sue attività, ma è anche un po' perché, per il motivo anche che ti ho detto prima, lei ci tiene molto a farlo da sola, nel senso che vuole essere lei l'eroina, che comunque è positivo, è un carattere, no? Come tutti gli eroi anche dei fumetti, se ci pensi, è abbastanza il carattere tipico del supereroe. Sì. Senti, il tuo lavoro che giro sta facendo, che reazioni suscita? Ma devo dire che un po', e di questo in qualche modo mi dispiace, questo film è più attuale di quando l'ho cominciato, e questo un po' mi dispiace, devo dire, mi fa stare male, però comunque vuol dire che è ancora più utile adesso che prima. Le reazioni sono ottime, devo dire, per fortuna, anche che credo di aver fatto un bel film, e di questo sono contento, ma anche rispetto al fatto che lei è un personaggio straordinario, quindi al di là del film, la sua storia, la sua vita è una cosa straordinaria, per cui è molto seguita, e abbiamo già fatto una piccola parte di tour a dicembre su Roma e Bologna, adesso ci sono altre città, tra cui appunto Napoli, Firenze, Milano, Torino, Asti, andremo anche a Perugia, e poi il giro continuerà, saremo a Praga in un festival ad aprile sui diritti umani, molto molto bello, saremo molto probabilmente a Monaco, poi ci sarà tutta la distribuzione televisiva, perché comunque è un film che merita di essere visto e che racconta una storia che merita di essere conosciuta. Sì. Vincenzo, il titolo? The Hate Destroyer. Sì. Ma guarda, devo dirti la verità che il titolo lo ha scelto lei. Ah, ok. Un bel giorno, mentre parlavamo, mi ha detto: io vorrei che il titolo del film fosse questo. Poi io l'ho leggermente elaborato, però la sostanza era proprio quella. E anche questo, secondo me, replica un po' il discorso che ti facevo sulla sensazione che lei si senta ed è in qualche modo una supereroina, no? È abbastanza un nome da supereroe. Sì. Senti, in chiusura, Vincenzo, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Ma allora, guarda, noi adesso abbiamo la pagina Facebook di Ed Destroyer, dove trovate tutto, è tutto lì, è sempre aggiornata, è sempre attiva, troverete le nuove date con orari e tutte le novità anche su Irmela, perché poi tanto nel frattempo lei continua ad avere la sua attività, non si è assolutamente fermata. Devo dire che anzi è stato difficile riuscire a programmare questo tour perché lei è molto più impegnata di me, quindi ah, quindi ci sarà anche lei comunque a... assolutamente, in tutte le tappe ci sarà anche lei. Bene, quindi sarà un modo anche per scambiare opinioni e conoscerla, insomma. Assolutamente, per provare direttamente l'energia che chiaramente il film non è riuscito in toto a restituire, perché è impossibile, bisogna conoscerla e apprezzare tutto quello che il film non è riuscito a raccontare. Sì. Allora Vincenzo, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie mille. Ciao. Vincenzo Caruso, regista del documentario The Eight Destroyer, in tour dal prossimo 12 gennaio. Ritroviamo Giona Nazzaro, autore della guida, in questo caso 50 più 50, 100 dischi al di sopra di ogni sospetto, che è uscita in edicola allegata al rumore ed ha un titolo anche più lungo. Giona, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, un saluto a tutte le compagne e compagni in ascolto. Allora Giona, raccontaci un po'. Bene, questa è un'idea che è nata chiacchierando con il direttore di Rumore, Rossano Lomele, che Rumore da sempre fa delle guide in cui dà una sorta di indicazione su quelli che sono i dischi di un determinato genere, i dischi dal vivo, i dischi di un determinato periodo e così via. Parlando con Rossano abbiamo detto che magari era interessante fare qualcosa sulla musica italiana, e lì ho lanciato l'idea di fare qualcosa sulla musica italiana da film, perché noi in Italia abbiamo un maestro come Morricone che a volte serve da alibi per i pigri che dicono Morricone e pensano di aver detto tutto. Ora Morricone è enorme, è il Michelangelo della musica contemporanea, però dietro Michelangelo ci stanno un sacco di altre storie, ed era proprio queste storie che si volevano raccontare. Così insieme con Marco Pecorari, il coautore del libro, siamo andati alla ricerca di queste storie musicali che si ritrovano poi soprattutto nei segreti dei film di genere italiani, quelli un po' più dimenticati e bistrattati. Senti, immagino voi siate partiti da musica e autori conosciuti, ma che abbiate trovato anche delle cose meno note, e che anche a voi. Assolutamente, questo era esattamente il senso, cioè di una guida che non fosse indirizzata solo agli iniziati al culto della musica da film, di cui in Italia ce ne stanno tantissimi, basti pensare a curatori come Claudio Fuiano, Pierpaolo De Sanctis o personaggi come Stefano Gilardino, Rocco Pandiani e altra gente, che hanno avuto il grande merito di non solo far conoscere queste cose, ma anche di dar corpo a questa loro passione attraverso edizioni di dischi e vinili. E quindi presentare un volume che raccogliesse non solo i maestri celebrati come appunto Morricone, Nicolai, ma anche i maestri un pochino meno noti come Nico Fidenco, Teo Usuelli, Lallo Gori, e non perché non sono noti in assoluto, ma perché il fruitore casuale magari non si ricorda dei loro nomi. E l'altra cosa che ci interessava in questa guida era quella di puntare una luce anche sui grandi maestri della musica contemporanea italiana come Giorgio Gaslini, Bruno Maderna, che anche loro si sono avvicinati al cinema di genere italiano prestando la loro opera per dei film, dei gialli, dei film erotici, e quindi permettendo attraverso questo contributo a questi stessi film di sopravvivere magari un po' più a lungo di quanto non avrebbero fatto da soli. Allora, dicevi di i gialli ed erotici, ma c'è un genere più ricco da questo punto di vista? Guarda, in realtà no, perché se escludiamo la musica dei film western, c'è da dire una cosa sulla musica da film italiana, e cioè questa: la musica da film italiana è inconfondibile, cioè non è una musica di mero commento come quella, per esempio, dei musicisti hollywoodiani, sia quella degli anni 40-50, ma anche quelli contemporanei. Cioè, la musica da film italiana, nella maggior parte, quella prodotta a partire dagli inizi degli anni 60, giù fino alla fine degli anni 60 e un pochino fin 70 e fino ai primissimi anni 80, è musica che si può fruire anche indipendentemente dalle immagini. Sì. E ognuno di questi filoni del cinema italiano, che sia il giallo, l'erotico, il western, lo spionistico, il post-atomico, ha una identità ben identificabile, anche perché questi musicisti che prestavano la loro opera al cinema erano poi dei musicisti e degli esploratori a tutto tondo. Si pensi per esempio a un musicista come Piero Umiliani, che è stato uno dei primissimi musicisti a portare e a diffondere il jazz in Italia. Si pensi per esempio alla colonna sonora dei Soliti Ignoti, Umiliani ha suonato con Chet Baker, però allo stesso tempo era un grande appassionato di musica esotica, nel senso proprio della musica esotica americana, e nel corso del tempo poi si è avvicinato anche al rock, al blues, ma soprattutto alla musica elettronica, alla musica elettronica, che ha esplorato in lungo e in largo, sotto coperto da numerosissimi pseudonimi, ed è una produzione, quella della musica elettronica di Umiliani, che se non sapessimo che si tratti di Umiliani penseremmo che si tratterebbe invece di gruppi della scena industriale inglese della fine degli anni 70, di dimenticati. Questo per dare il senso della ricchezza di queste cose. Per esempio, per fare un altro esempio, uno come Nico Fidenco, autore di una canzone amatissima come Legata a un granello di sabbia, ha scritto musiche per i film di Gio D'Amato, ma ha anche scritto sotto vari pseudonimi musica da sonorizzazione, spaziando dal funk al jazz alla musica sperimentale. Ha scritto musica per film western, le sue canzoni sono state prese per film diversissime come I Delfini, La Commare Secca, e quindi questi musicisti sono il sintomo di una vitalità di un'epoca che oggi è un pochino andata scomparendo, perché oggi la musica da film italiana si è accomodata, oppure si è adeguata, ecco, forse il termine più esatto, si è adeguata a quella che è la musica da film internazionale, cioè musica da commento alle immagini, quando va bene, insomma. Sì. Mentre invece con questa guida abbiamo voluto dare visibilità, merito, certo, a dei maestri veri, che erano anche dei grandi lavoratori dello spartito, e soprattutto, se mi posso ancora permettere, in questo volume che abbiamo curato e che è in allegato al Rumore, si parla soprattutto anche di tantissimi musicisti italiani che hanno spaziato in tantissimi ambiti, musicisti come Enzo Restuccia, Dino Piana, Oscar Valdambrini, Franco D'Andrea e così via, cioè musicisti che rappresentano il meglio di quanto la cultura musicale italiana del Novecento ha espresso. Sì, sì. Adesso, per esperienza, quello che mi viene in mente è un periodo particolarmente felice, e tu l'hai anche citato in parte, e i 50 e i 60, con ad esempio un jazz in versione pop ritmato e orecchiabile. Questa è una delle grandi caratteristiche della musica da film italiana di quegli anni, perché gli italiani non si limitavano semplicemente a risuonare la musica che veniva d'oltreoceano. Poi bisogna anche tener presente che il grande senso di libertà veicolata dal jazz soprattutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo un ventennio di autarchia culturale, ha fatto sì che i musicisti italiani ovviamente tentassero anche di ibridare il jazz non certo. solo con la tradizione musicale italiana, ma anche con quello che veniva da altri posti. Si pensi per esempio alla grande fortuna che ha incontrato la musica brasiliana sì, in Italia, ma anche con i ritmi del rock and roll, del beat che venivano dall'Inghilterra e così via. Quindi lo specifico della musica del film italiano è che a partire da matrici chiaramente non italiane si sia prodotta una musica che è intimamente italiana, quintessenzialmente italiana. Ora non per un discorso banalmente nazionalista che ovviamente non ci interessa, sì. però delle note scritte da Umiliani, da Alessandro Alessandroni, da Bruno Nicolai sono immediatamente riconoscibili da quelle scritte da musicisti non italiani di sì, quello stesso sì, sì. periodo, ed è una cosa che ci è riconosciuta da per esempio studiosi ma anche registi in giro per il mondo, insomma. Senti Giona, la vostra guida, la tua guida, a quanti film si riferisce e quanti autori comprende? Allora, la guida si divide in due parti. La prima parte ci sono 50 autori per 50 film per 50 dischi, sì. e la seconda parte sono altri 50 dischi di autori che sono stati attivi o nel jazz o al cinema, che però hanno anche scritto musica, quella che oggi chiamiamo musica da sonorizzazione, le library e così via. E quindi nella prima parte si parla di film, ed è anche soltanto è divertentissimo citare i titoli perché sono bellissimi, tipo Come svaligiammo la Banca d'Italia, un Ciccio e Franco movie, Si può fare molto con sette donne di Franco De Gemini, Sangue di sbirro di Alessandro Alessandroni, oppure uno dei più bei titoli, Riti, magie nere e segrete orge nel 300 di Gianfranco Reverberi, oppure i film musicati da Frizzi per Lucio Fulci come Paura nella città dei morti viventi, Napoli si ribella di Franco Campanini, Non si deve profanare il sonno dei morti di Giuliano Sorgini. Insomma, sono dei titoli bellissimi. Senti Giona, ci lasci anche tutti i riferimenti per saperne di più? Tutti i riferimenti sono contenuti nella guida. La guida sta in allegata al numero 312 di Rumore, il numero di gennaio, che starà in edicola fino agli inizi di febbraio. Nella guida sono presenti tutte le indicazioni discografiche e critiche, bibliografiche e quant'altro. Ovviamente se subirete un'emorragia economica non prendetevela con i poveri autori di questa guida. Allora Giona, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi per l'ospitalità. Ciao, ciao, ciao. Giona Nazzaro, autore della guida 50 più 50, 100 dischi al di sopra di ogni sospetto. Walter Nanni, regista del documentario Cent'anni di veleni, che sarà proiettato questa sera a Pescara al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna. Walter, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Eccoci, salve, un saluto a voi tutti. Un titolo molto indicativo, di cosa si parla? Raccontiamo la triste, dolorosa vicenda dell'inquinamento del sito di Bussi. Uno dei posti più belli d'Abruzzo da 100 anni, purtroppo al centro di rifiuti, di inquinamento, una vicenda drammatica che ha ferito al cuore una parte del territorio dell'Abruzzo, una storia che è stata raccontata in passato solo in parte, e in questo caso cerchiamo di rimettere in ordine la storia, i fatti, Soprattutto cerchiamo di guardare al futuro, cerchiamo di in qualche modo di raccontare come si possa uscire da questa vicenda. Senti, come è cominciato questo disastro e cosa si è tentato in passato e attualmente per porvi rimedio? In realtà l'insediamento proprio da parte di industrie chimiche in quella zona risale alla fine dell'Ottocento. Okay. Poi quel tipo di bussi, soprattutto nel periodo fascista, ha avuto uno sviluppo perché pochi sanno che molte delle bombe che furono utilizzate anche ad esempio per la guerra d'Africa eccetera, i prodotti delle bombe venivano realizzati proprio lì subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oltretutto, durante il periodo fascista, quel sito era alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra di Mussolini. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale quello stabilimento ha avuto un ulteriore sviluppo da un punto di vista industriale, ha rappresentato un'eccellenza in Italia. Certo è che poi hanno, ahimè, inquinato un territorio molto vasto, hanno fatto dei disastri inquinando anche le falde acquifere, questo non lo dico io, lo dicono ormai le sentenze sui processi che sono poi nati inevitabilmente subito dopo, nel 2007, quando venne fuori questa storia. Mm-hmm. Quindi hanno inquinato l'acqua che potrebbe essere arrivata nelle case di 700.000 persone. Quindi è una faccenda drammatica, una storia che parte da lontano. Oggi lì ci sono ancora pezzi di territorio fortemente inquinati e che andrebbero ovviamente bonificati. Raccontare questa storia, cercare di far conoscere oggi al pubblico questa storia, è anche una straordinaria occasione per aprire finalmente un dibattito serio su cosa poter fare lì e come trasformare appunto questa vergogna in una cosa positiva per il futuro. Mm-hmm. Senti, cosa si sta muovendo in proposito? In realtà non moltissimo. Perché ormai sono passati 10 anni da quando è venuta fuori questa storia, da quando sono stati scoperti i veleni interrati in quella parte di territorio, tonnellate e tonnellate di veleni, tra i più pericolosi al mondo oltretutto. In realtà negli ultimi 10 anni non è stato fatto moltissimo, quindi è così in questo momento. Però, purtroppo è così. Però comunque questo documentario sicuramente può avere il compito di smuovere un po' le coscienze. Ma credo che in qualche modo sia anche, non dico la nostra mission, chi fa, sì, il nostro mestiere, certo, decide di raccontare una storia del genere, in qualche modo si prende anche la briga di accendere un ulteriore faro su quella vicenda, cercare di far conoscere innanzitutto questa storia nella sua interezza, senza accusare le persone così, diciamo, tra virgolette a caso, senza entrare nelle dinamiche politiche o partitiche, semplicemente far conoscere questa storia e cercare di individuare una soluzione per il futuro. Io ho cercato, è una brutta storia, ho cercato però di, anche nel realizzare le immagini, di far vedere l'incredibile bellezza di quella parte del territorio. L'Abruzzo è una terra estremamente bella, non lo dico solo perché è la mia terra, è una terra veramente con delle peculiarità dal punto di vista proprio ambientale, naturalistico, pazzesca. Mm-hmm. Ecco, ho cercato proprio di far vedere la bellezza innanzitutto di quel territorio. Quindi in qualche modo suggerendo anche allo spettatore che forse varrebbe la pena difendere questo patrimonio che abbiamo. Ormai lì il disastro è stato fatto, indipendentemente poi dalle responsabilità, indipendentemente poi dalle vicende giudiziarie o meno, lì il disastro ormai è stato fatto. Quindi bisogna veramente guardare al futuro e cercare di, in qualche modo, di risolvere il problema. E raccontare questa storia ha rappresentato, come dire, un'occasione per accendere, come vi dicevo, un altro riflettore. Quello è importante, perché sì, sì, il dibattito pubblico può spingere e spinge anche le istituzioni, il mondo politico, a fare realmente qualcosa. Credo che faccia parte, come dire, anche del nostro mestiere, è un dovere anche da parte nostra, soprattutto se affrontiamo queste tematiche. Il cinema è inevitabilmente un veicolo straordinario per raccontare, sì, sì, le vicende, permette di arrivare anche al cuore delle persone, e quindi utilizzare questo strumento credo sia molto importante, un dovere anche etico, no, sì, da parte nostra, sì, sì, da parte, sì, mia in questo caso. Allora, stasera ci sarà la proiezione a Pescara al Museo d'Arte Moderna di Vittoria, sì, Vittoria Colonna, e ci lasci a questo punto anche dei riferimenti internet per saperne di più sul documentario e sulla tua attività. C'è una pagina Facebook, un sito internet? In questo momento non credo ci sia una pagina Facebook, anche perché materialmente il documentario non l'ho prodotto io, l'ho scritto e realizzato, non c'è un riferimento in particolare, però sicuramente sul web, attraverso proprio il titolo del documentario, 100 anni di veleni, si possono trovare moltissime informazioni, anche perché insomma oggi la sala sarà anche piena, e questa è una cosa molto bella, perché significa che anche da parte del pubblico degli abruzzesi c'è voglia di sapere qualcosa di più su questa storia. Evidentemente c'è, come dire, anche da parte delle persone il bisogno di non dimenticare questa storia, ma di affrontare il problema. Devo dire, questa cosa mi ha anche sorpreso molto, sapere che oggi ci saranno tante persone a vedere il documentario, in qualche modo dà senso anche al lavoro che abbiamo fatto. Bene, bene. Allora Walter, io ti abbraccio, bocca al lupo, a risentirci alla prossima. Grazie, grazie tantissime. Ciao, ciao, ciao. Walter Nanni, regista del documentario 100 anni di veleni al Museo d'Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara, oggi giovedì 11 gennaio, e questa è Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, all'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. E siamo in collegamento con il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro per parlare della loro rassegna cinematografica Voce Volto, che riprende oggi giovedì 11 gennaio. Allora, raccontaci un po', intanto ben ritrovato. Sì, ciao Federico, grazie per lo spazio che come al solito ci concedi, la solita trasmissione interessante, che anche oggi stavo seguendo l'intervento di Giona Nazzaro sul libro delle colonne sonore dei film italiani, molto, molto interessante. Sì, vabbè, sì, questa sì, è una piccola. E niente, Noi abbiamo interrotto la rassegna Voce Volto per il periodo di Natale, quindi diciamo che fino al 14 di dicembre, partendo da settembre, abbiamo sempre proiettato tutti i giovedì. L'ultimo film che abbiamo fatto è stato Neruda di Larraín. Spiego velocemente qual è l'intento della nostra rassegna, che chiaramente il nome forse lo fa capire. Diciamo, non slegare mai la voce degli interpreti dei film dal volto, quindi giocare su questa, diciamo, logica della lingua originale, chiaramente sempre con sottotitoli. Quindi ecco, diciamo, un po' la nostra una nostra scelta che abbiamo fatto, insomma, da diversi anni, ormai sono 7 anni che proiettiamo solamente in lingua originale. Sì. Questo non preclude il fatto che possiamo anche proiettare film italiani, chiaramente, che parlano la nostra lingua. Senti, per la scelta dei titoli e la qualità della proiezione, dicci qualcosa. Ma ti sento male, scusami. No, chiaramente, dicevo, per chi ci ascolta, qualcosa su... Ci sei? Dimmi. Ecco, dicevo... Adesso sì, ti sento un po' meglio. Per chi ci ascolta, magari diamo qualche informazione in più sulla qualità di proiezione e anche sulla scelta dei titoli. Beh, noi proiettiamo quasi ed esclusivamente in Blu-ray. Ok. Quindi, insomma, ci sono 2 sale al Faro, come tu sai, se sei un frequentatore. Quindi una sala grande con schermo cinematografico reale e una sala più piccola con schermo murale, anche quello, insomma, abbastanza grande. Sì. E quindi, vabbè, questo per quanto riguarda, viene proiettato il film con videoproiettore, chiaramente. Per la scelta di film, noi chiaramente compriamo i supporti originali. Ci può capitare anche di fare proiezioni con gli autori, però quello magari lo sleghiamo sempre un po' dal giovedì, cosa. Visto che tu mi hai fatto questa domanda, posso dire ad esempio che oggi inizia con Manchester by the Sea, che è stato uno dei casi cinematografici dello scorso anno di Kenneth Lonergan, quindi film notevole. Sì, un film notevole, un film che comunque, cioè, nella scorsa stagione, insomma, è stato probabilmente tra i migliori. Quindi ecco, anche la scelta è anche legata un po' ai film che ci sono piaciuti, ecco, andando al cinema. Sì, e quindi magari poi li riproponiamo all'interno della nostra rassegna. Senti, a partire da oggi sarà tutti i giovedì, e poi se ci dici anche gli orari. Allora, oggi, allora, per quanto riguarda gli orari, i film iniziano tendenzialmente dalle 21:30, poi può capitare che magari c'è un lieve ritardo, però insomma, diciamo, tendenzialmente l'orario indicato è 21:30. Perfetto. Il giorno è il giovedì, chiaramente l'ingresso è gratuito, la sala è riscaldata. Se vuoi ti posso dire anche i film che faremo gli altri 2 giovedì di questo mese. Beh sì, allora concludiamo gennaio a questo punto. Sì, certo. Guarda, allora, per quanto riguarda il 18 gennaio, che anche quello giovedì, faremo Liberami di Federica Di Giacomo, che è un documentario che abbiamo italiano, ospitato anche in trasmissione. Sì, immagino. Mi ricordo che è stata anche in trasmissione questa, è stato anche raccontato in trasmissione questo film. Sì. E poi il 25 gennaio faremo Dipan di Jacques Diard, che è un film del 2015, però siccome anche quello ci era piaciuto molto, diciamo che noi come logica cerchiamo sempre di fare quelli o dell'anno in corso o dell'anno precedente, però chiaramente i supporti non è molto facile trovarli, certo, se non sono usciti. Certo. Quindi noi cerchiamo sempre di farlo almeno col supporto originale. Senti, per tutte le informazioni c'è la pagina Facebook del centro sociale, giusto? Allora, per l'informazione relativa al cinema c'è la pagina dedicata che si chiama Cinema Faro Occupato Infoproiezioni, che è di Facebook. Sì. Quella, basta chiedere l'amicizia, a quella pagina ci sono tutte le informazioni. E poi chiaramente noi abbiamo insomma un rapporto con Roma Attiva che pubblica le nostre, diciamo, locandine cinematografiche, quindi anche come diciamo, per informarsi basta anche seguire Roma Attiva. Perfetto. Però consigliamo a tutti di diventare amici della pagina Cinema Faro Infoproiezioni, perché così potranno sapere sempre tutto. Benissimo, allora un abbraccio e buon proseguimento. Sì, guarda, un'ultima comunicazione, lo dico così, come sai, insomma, il Cinema Faro occupa 30 anni e occupa una proprietà privata, perché quello era un cinema che appartiene ancora a una proprietà che ne rivendica da circa un anno con azioni legali da parte degli ufficiali giudiziari e le rivendica, diciamo, la proprietà. E quindi noi da un anno più o meno che periodicamente ci sono le visite degli ufficiali giudiziari. Lunedì 15 ci sarà l'ennesima visita dell'ufficiale giudiziario, poi come centro sociale, ma anche come tanti simpatizzanti, ci faremo a trovare lì sulle scale la mattina dalle 7:30, quindi chiunque può venire in maniera pacifica ma determinata, chiaramente saremo lì e faremo valere insomma le nostre ragioni. Perfetto. Quindi chiunque ha a cuore questa struttura, chiunque ha a cuore, diciamo, il cinema a Roma, visto che una delle poche sale ancora con lo schermo cinematografico, è ben accetto. Bene, bene. Allora, un abbraccio e a presto. A presto, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Questo è il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro, a proposito della rassegna cinematografica Voce e Volto sui film in lingua originale sottotitolati, che riprende oggi giovedì 11 gennaio. Silvia Giop, co-regista del documentario Upwelling, che sarà programmato questa sera a Roma all'Apollo 11. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi per l'ospitalità e sono molto felice di essere qui. E purtroppo Pietro non è qui con me in questo momento perché è ancora in viaggio, causa vari maltempi, ma eccoci qua a modo nostro. Bene, allora Upwelling, che storia racconta? Allora Upwelling in qualche modo racconta un frammento dell'Italia contemporanea in cui si incrociano desideri di resistenza e di rinascita in contesti profondamente segnati da una storia, diciamo, importante come è stata quella di Messina, perché è svolto tutto quanto a Messina, che è stata una delle città, diciamo, più distrutte dal terremoto del 1908 e che pare in qualche modo essere ancora costantemente attraversata da quest'eco di catastrofe, e quindi questo gioco, diciamo, di specchi e di rincorse tra spinta di rinascita di una città che vuole essere viva e attiva e la difficoltà di esserlo visti i tempi e le difficoltà legate alla propria storia. Quindi è sì un film che racconta Messina, ma al tempo stesso è un film che racconta una città e che cosa vuol dire oggi in Italia convivere con delle spinte che vanno verso l'alto e delle spinte che vanno verso il basso. Senti, come nasce tutto il progetto? Il progetto nasce da un viaggio che insieme a Pietro Paschetti abbiamo fatto ormai nel 2013, se non sbaglio, perché ormai queste immersioni diventano quasi secolari, e che abbiamo fatto, diciamo, sull'onda lunga delle occupazioni dei teatri che ci sono stati tra il 2012 e il 2013 in tutto il paese. Siamo partiti da Roma, ma siamo stati a Napoli, a Pisa, a Milano, in tutta la Sicilia. E diciamo che l'esperienza che abbiamo fatto nell'incontro del Teatro Pinelli Occupato, che era la realtà che a Messina ospitava questa esperienza, è stato un incontro particolarmente significativo. Anziché entrare in uno spazio occupato, stavamo sbarcando in una città che era completamente attraversata da delle questioni che ritenevamo fondamentali per quello che riguarda il comprendere ciò che vive l'Italia oggi. Senti, a proposito della stagione degli spazi teatrali occupati, e la Sicilia è stata uno dei capisaldi, un luogo dove il fermento è stato molto vivo e attivo. Assolutamente, infatti è stato per noi molto forte fare, insomma, è stato importante perché da un lato ci ha dato la sensazione, diciamo, di unità, di un'esperienza che accadeva in tutta la penisola, che in decenni si è sempre raccontata come molto frammentata. Dall'altro lato è vero che ogni luogo aveva le sue specificità, ed è vero che la forza della Sicilia con Catania, Messina e Palermo ha avuto un impatto molto forte, anche perché lì, diciamo, c'era una tradizione anche di un pensiero anarchico molto radicato, molto più forte che magari in alcuni luoghi dove a caratterizzare il movimento erano altre anime. E quindi diciamo che è stato molto interessante nello specifico l'esperienza di Messina, perché c'è stata una connessione profonda tra l'esperienza di liberazione di questi spazi abbandonati in città e l'elezione di un sindaco che veniva da un'esperienza politica di movimento e non di partito, senza svicolare, diciamo, in esperienze più semplici come possono essere state quelle di 5 Stelle, ma che ha scelto un percorso completamente autonomo e con il movimento, per cui diciamo che di sicuro l'atmosfera siciliana è stata molto importante anche per quel tipo di esperienza che in qualche modo raccontiamo nel film. Ecco, a proposito, a partire da queste radici, come avete costruito il film? Come lo avete strutturato? Guarda, è stato un percorso importante dove devo dire Pietro ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che è stato il tentativo era quello di non schiacciare la realtà su una visione dicotomica di bene e male, di vita morte, e di conseguenza il lavoro che Pietro è riuscito a fare soprattutto con un lavoro di regia che è stato fondamentale legato allo sguardo di Pietro, ci ha consentito di non appiattire, chi vedrà il film avrà modo di capirlo, di non appiattire la visione su una narrazione classica o su grandi temi che molto spesso sintetizzano facendo perdere elementi di specificità, ma che tenta di ricostruire, diciamo, una visione caleidoscopica, frammentaria, ma non per questo scissa al proprio interno. Allora, raccontiamo anche, ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi a Roma con luogo, orari e presenze? Sì, allora, questa sera saremo, diciamo che giusto per dare due piccoli elementi, il festival ha girato per un anno in giro per festival, scusate, il film ha girato per un anno in giro per festival internazionali, sì, arrivando fino in Sud Corea, e la data di stasera, ore 21, al cinema, all'Apollo 11, è la prima data di sala italiana. Perfetto. Quindi siamo molto contenti, ci sarà con noi Gianna Nazzaro. Che abbiamo sentito poco fa per la sua guida. Perfetto. E quindi siamo molto felici che Gianna abbia deciso di presentare il film, perché per noi è molto importante lo sguardo che John ha sviluppato in questi anni attorno al cinema italiano, e che a Puelling goda anche di questo sguardo, per noi è molto importante. Bene, in chiusura Silvia, ci lasci anche i riferimenti web per saperne di più sul film e sulla vostra attività? Certamente, noi abbiamo una pagina Facebook che aggiorniamo in tempo reale, che è A Puelling, la risalita delle acque profonde, e poi abbiamo il sito internet che è in via di aggiornamento, che è puelling.it. Benissimo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie il lupo e grazie a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Silvia Giop che con Pietro Pasquetti, che purtroppo al momento non era con lei, sono registi del documentario A Puelling, questa sera all'Apollo 11 qui a Roma. Ed eccoci nuovamente con Mario Corvini della New Talents Jazz Orchestra per il quarto appuntamento di questa seconda stagione, I compositori di Hollywood, dal Teatro Palladium qui a Roma, domenica 14 gennaio. Mario, come va? Ciao, auguri. Ah, bene, auguri anche a te, tutto a posto. Bene, dai, bene. Non ci lamentiamo, sono reduce adesso dall'uscita, abbiamo finito di provare poco per il Palladium, abbiamo fatto la prima prova, la prima delle quattro, e niente, quindi abbiamo già cominciato a vedere un po' di roba nuova e è stata una bella prova intensa, 4 ore di prova, bella faticosa. Senti, per chi ci ascolta, presentiamo anche la New Talents. Quanti elementi, quando si è formata, raccontiamo un po' la sua storia. Bene, la New Talents Jazz Orchestra è un'orchestra giovanile di jazz nata nel 2012, si è formato come nucleo diciamo didattico, però poi nel tempo si è concretizzata diciamo l'attività, sono diventati sempre più bravi, quindi adesso è un'orchestra a tutti gli effetti professionale. Tra l'altro da quest'anno, dal 2017, dall'altro anno, voglio dire, 2017, è l'orchestra residente dell'Auditorium Parco della Musica e niente, quindi stiamo facendo questo è il quarto concerto, di questi 4 concerti appunto che abbiamo fatto al Teatro Palladium, quindi i compositori di Hollywood. Senti, quali avete scelto a proposito di musicisti, compositori di Hollywood? Beh, la scelta è molto difficile, siamo caduti poi alla fine su quelli più rappresentativi, tra i più rappresentativi, okay. Partendo da Nino Rota, Ben Herman, Alan Silvestri, John Williams, Henry Mancini, diciamo quelli più rappresentativi, sì, anche se sì. Poi ce ne sono stati tantissimi altri, anche sì. Della prima epoca di Hollywood, Alfred Newman, Elion Goldenthal, Alan Silvestri, ho detto, Elmer Bernstein, Leonard sì. Bernstein, no, la scelta sarebbe stata, si può aprire un ciclo di 7 concerti con i compositori di Hollywood, talmente tanti ce ne sono, davvero. Sì, sì. Infatti è stata difficile anche la scelta dei brani, proprio perché sì. C'è una varietà davvero incredibile. Senti Mario, a questo proposito ti chiedo quanti saranno i pezzi che eseguite domenica e poi che periodo storico comprendono? Ma i brani che suoneremo saranno 9 brani più il bis 10. Ok. Ma le epoche, diciamo, grosso modo dagli anni 50 sì. / 60 più 60 fino a fino agli anni 90, dai, non abbracciamo tantissimo, non abbracciamo una forbice ampia, beh, però insomma quei 35 anni, 40 anni sì, sì. Cui sono successi davvero tantissime cose a livello cinematografico, quindi è un po' un periodo dagli anni 50-60 fino agli anni 90. Sì, sì. Senti, qual è l'approccio? Come hai deciso di interpretare questi brani? Ma abbiamo deciso di interpretarli innanzitutto alla nostra maniera, quindi questi brani sono stati resi famosissimi per come sono stati presentati originalmente sì. Dall'original soundtrack, diciamo, no? Dal film sì. Però noi li abbiamo interpretati un po' alla nostra maniera, quindi per Jazz Orchestra alla nostra maniera, dico, anche perché molti degli arrangiamenti di domenica saranno realizzati da alcuni componenti della New Talent Jazz Orchestra, quindi da me a Nicola Tariello, Riccardo Nebbiosi, Luca Berardi, quindi proprio alla nostra maniera, ecco, quindi proprio come interpretazione nostra, ecco. Senti, non ci hai detto quanti elementi siete, e poi volevo sapere anche se anche per questa seconda rassegna ci sono le immagini ad accompagnare la musica. Sì, allora siamo 17 elementi d'orchestra più io 18. Ok. E ci saranno 3 brani con le sequenze video su 3 Star Wars, Deborah's Team di Ennio Morricone, mi ero dimenticato, il nostro grande Ennio Morricone, ecco. Un brano tratto dal Cielo Notte in America, Deborah's Team, che è uno dei brani più belli che sono mai stati scritti nel cinema mondiale, di tutti i tempi. E un arrangiamento appunto di Nicola Tariello. E quindi niente, questo, questo è. Senti, il tuo, a tuo gusto personale, quali sono i compositori hollywoodiani che ami profondamente? Che amo profondamente, senza sì, ombra di dubbio, John Williams. Oh, ok. Lo, per lui ho un amore quasi da figlio a padre, perché io sono cresciuto con lui. Non lo so, lo adoro, lo ascolto da quando ero piccolo. Conosco quasi tutte le sue colonne sonore, dico quasi tutte perché molte ha scritto anche per telefilm, per, che sono uscite, magari cose che sono uscite solamente in America, sì, e io sì, sono riuscito a prenderle da di qua e di là, insomma, in maniera insomma difficile da però insomma per me è un grande, è un grande perché ancora scrive, ha 86 anni, ancora scrive e anche alla grande, perché insomma tuttora con l'ultimo film di Spielberg, GGG, è un grande, sì, lo adoro. Sì. Allora Mario, ricordiamo l'appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 18 al Teatro Palladium qui a Roma, Garbatella. A questo punto ti chiedo tutti i riferimenti internet per saperne di più su di voi. Allora, noi abbiamo un sito internet www.ntjorchestra.it oppure New Orleans Jazz Orchestra Facebook. Abbiamo anche il nostro canale YouTube, quindi da Facebook, però ci sono tutte quante le nostre, la nostra, ci sono tutte le, sulla bacheca, tutte le nostre prossime avventure, quindi da lì potrete vedere tutto ciò che facciamo. Quindi prossimo appuntamento, quarto e ultimo appuntamento, appunto come hai detto tu, al Teatro Palladium alle ore 18, i compositori di Hollywood. Bene, allora come ti ho detto ci vedremo lì domenica. A questo punto io ti invito alla serata che facciamo sabato, non so se sei libero, però insomma facciamo una serata sabato sera, una prova, e abbiamo la generale con l'orchestra abbiamo la prova generale, però se non finisce tardi al Cinema Palazzo qui a San Lorenzo facciamo una serata di teatro e musica nell'ambito del quarantennale della radio. È una serata flusso a partire dalle 9, ma andremo avanti oltranza, quindi se riesci a liberarti ci farebbe piacere, insomma. Con molto piacere. Grazie mille. Un abbraccio, ciao Mario. Buona giornata a tutti. Grazie. Ciao. Mario Corvini della New Talents Jazz Orchestra sui compositori di Hollywood, l'ultimo dei quattro appuntamenti di questa seconda stagione al Teatro Palladium a Garbatella domenica 14 gennaio alle ore 18. Laura Aprati, coregista del documentario La Forza delle Donne, in tour dal prossimo 16 gennaio. Laura, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, grazie. Ciao. Allora, raccontaci un po', un titolo che già mette in chiaro le cose. Che storia è questa? Ma è la storia della quotidianità della guerra vissuta tra Iraq, Libano e Siria. Cosa vuol dire essere donna, trovarsi in guerra e dover affrontare la mancanza di tutto, perché per noi logicamente abituati ad avere la possibilità di acquistare o comunque di avere a disposizione tante cose, non riusciamo ad immaginare cosa vuol dire vivere senza acqua, senza cibo, senza un ospedale, dover fare chilometri sotto un bombardamento per scappare. E quindi è il racconto di queste donne, ma anche delle donne come le libanesi che accolgono i profughi e si trovano di fronte ad un'ondata migratoria molto forte, che ti dicono arrivano, ci tolgono il lavoro, noi dobbiamo pensare ai nostri figli, non sappiamo come fare. Quindi le due facce di una guerra, quella di chi scappa e quella di chi queste persone le deve accogliere. Com'è nato questo progetto? Ma il progetto è nato da un primo viaggio in Iraq, nel Kurdistan iracheno, con FOXIV, che è una federazione di organizzazioni non governative cattoliche, e siamo andati a vedere dei campi profughi. Già questa esperienza è stata notevole. Voi dovete pensare che ci sono campi profughi dove come minimo ci sono 32.000 persone che vivono sotto le tende, cioè una piccola cittadina. Sì. Già vedere cosa vuol dire per un bambino crescere all'interno di un campo, avere una quotidianità precaria, poter avere sì un pacco di 10 kg di cibo una volta ogni X, perché le organizzazioni non governative internazionali ti supportano, ma non avere più la tua vita. Sì. Questo ci ha già colpito moltissimo. Dopodiché siamo tornati, perché eravamo interessati a Mosul Ovest e all'attacco a Mosul Ovest, e entrati a Mosul Ovest poi veramente hai un quadro molto più preciso, molto più forte di che cosa succede in guerra, di che qual è la vita quando vivi rintanato in casa perché ci sono i cecchini. E abbiamo incontrato una bambina di 5 anni che faceva compagnia al cecchino iracheno di 22. Due giovani vite cresciute in mezzo ai bombardamenti e alla guerra. Sì. Il pensiero è: questa bambina quando sarà grande che vita avrà, essendo vissuta conoscendo solo la guerra, vedendo solo il sangue, il dolore, la privazione? E da lì c'è nata l'idea di raccontare queste storie. Senti, nel alcuni passaggi veramente si tocca con mano la distruzione di Mosul, che è una città quasi rasa al suolo, quasi completamente rasa al suolo, e anche la condizione in altri passaggi della popolazione degli yazidi. La popolazione yazida è una popolazione di cui molti hanno letto, logicamente hanno sentito parlare, è la più colpita dalla ferocia dell'ISIS, per un motivo quasi banale, perché le donne yazide insieme alle donne curde sono state quelle che hanno combattuto di più contro l'ISIS. Ora poi bisogna anche dire che gli yazidi sono zoroastri, cioè hanno una religione legata all'ambiente, al pavone, hanno una loro visione della vita. E per gli integralisti islamici le donne sono proprio il diavolo, sono la rappresentazione vera del diavolo. E quindi essere uccisi da una yazida vuol dire essere privati dalla visione del profeta nell'aldilà. E quindi loro si sono accaniti, c'è stato anche un mercato di queste donne che erano prese prigioniere, sono state stuprate, l'ONU ha riconosciuto il genocidio yazida grazie ad Amal Clooney. È una popolazione che ha sofferto molto, soprattutto perché viveva nell'interno, nelle montagne, in zone veramente difficili da raggiungere. Sì, sì. Un altro aspetto è quello della popolazione curda, come ti dicevi te, delle donne che combattono, un popolo che nonostante tutto non è stato mai schiacciato. Ma l'indipendenza turca, curda, scusami, è sicuramente uno dei fattori principali, innanzitutto della sconfitta anche del Daesh o ISIS, come lo vogliamo chiamare, in Iraq. Sì. Non dimentichiamo i famosi Peshmerga e le donne Peshmerga che hanno combattuto, sono stati i primi ad affrontare l'ISIS. Quindi sono stati loro anche i promotori, come dire, di un risveglio di tutta la popolazione irachena contro il Daesh. È logico che loro mirano alla loro indipendenza, non credo che sia possibile, sono sicuramente una popolazione diversa, ma noi dobbiamo pensare che lì, in quella che era l'antica Mesopotamia, vivono tantissime popolazioni e tutte hanno una loro storia, una loro cultura. Sì. I curdi poi sono divisi tra Iraq, Turchia e Siria, e quindi questo li rende forse l'etnia più importante del territorio. Sì, sì, sì. Senti Laura, il vostro documentario che tipo di tour sta facendo? L'idea è proprio quella, siccome il problema delle migrazioni e dell'accoglienza è un problema che abbiamo tutti, in Libano come in tutta Europa e in Italia principalmente, allora ci piaceva mettere a confronto nelle varie tappe realtà in cui c'è chi accoglie e chi è scappato e ha trovato rifugio da noi, anche per capire se e come è possibile trovare una formula di accoglienza che non sia, come dire, una diminuzione per chi accoglie, quindi problemi di lavoro, gestione della società, e che sia d'altra parte un sistema per dare un aiuto a chi fugge. Sì, sì. Perché altrimenti rimaniamo sempre su due, no? Su due fronti. Loro vengono, ci tolgono il lavoro, ci tolgono il pane, ci tolgono tutta una serie di possibilità e quindi noi non li vogliamo. Ma esiste un modo di integrarsi? C'è, e forse ci sono già delle realtà, i famosi SPRAR in giro per l'Italia, che lo fanno. Quindi bisogna alimentare questa cultura dell'accoglienza, che non vuol dire accoglierli punto e basta, vuol dire trovare una forma di convivenza utile tra virgolette per l'uno e per l'altro. Bene, bene. Laura, ci lasci in chiusura tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, www.laforzadelledonne.com e la pagina Facebook, trovate tutte le date e tutte le iniziative. Benissimo, allora un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao. Grazie. Laura Apratico, regista del documentario La forza delle donne, in tour dal prossimo 16 gennaio. Ed era questo l'ultimo degli interventi per quanto riguarda gli ospiti della puntata di questa settimana, di questo giovedì 11 gennaio 2018 di Visionari su Radio Onda Rossa. Per quanto riguarda la trasmissione, si torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta, e sempre sull'home page per tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione, alla colonna centrale, alla voce trasmissioni, Visionari, e poi c'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.